giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Barcila ha slittato il tavolo, resta il massimo riservo sull'entrata in campo di MSC per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Sotto organico, nei pronto soccorso, presso in servizio 5 medici esterni nell'azienda Friuli Centrale. A Pordenone Acquafarm, fiera dell'allevamento ittico, il ministro Lollobrigida serve sostenibilità ambientale e di reddito. 4 impianti fotovoltaici per l'Università di Udine, l'Ateneo risparmierà il 30% dei costi di energia. Calcio Serie C, terza sconfitta consecutiva per la Triestina, battuta a Fontanafredda dal Renate per 3-1. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Cominciamo dai temi dell'economia e del lavoro. Incontro slittato su Wärtsilä a Roma dopo l'annuncio inatteso dell'interesse di MSC per lo stabilimento giuliano, che accende ulteriori speranze tra lavoratori e sindacati. Un'ipotesi che salverebbe 300 posti di lavoro e permetterebbe soprattutto un nuovo insediamento produttivo in un territorio in forte crisi da questo punto di vista. Val bene un rinvio. Al Ministero delle Imprese è stato spostato il tavolo previsto oggi su Wärtsilä, ufficialmente per valutare le documentazioni pervenute, che però non sono ancora quelle di MSC, il colosso del mare, che per bocca del fondatore e presidente Gianluigi Aponte ha dichiarato in un'intervista di aver chiuso l'accordo con la multinazionale finlandese per prendersi 300 lavoratori coinvolti nella dismissione del sito di Trieste e reindustrializzarlo per creare una fabbrica di carri ferroviari merci, il tutto in un'area logistica importantissima per il colosso svizzero, vicino alla banchina del porto del capoluogo giuliano, dove negli scorsi mesi ha investito pesantemente. L'accordo, per ora non confermato da Wärtsilä, ha colto di sorpresa le parti sociali e anche quelle istituzionali. Rimasta l'impostazione di un accordo di programma per far entrare gradualmente Ansaldo Energia a Bagnoli della Rosandra per un programma sull'idrogeno. È chiaramente da capire ora se le due ipotesi possano coesistere, come sperano i sindacati, per recuperare anche i posti persi nell'indotto. MSC e Aponte in persona hanno lavorato sotto traccia con i finlandesi, nonostante gli ottimi rapporti con autorità portuale, regione e governo. Del resto, proprio a gennaio, l'esecutivo, nell'accordo last minute, aveva preteso che Wärtsilä avesse un ruolo attivo nella reindustrializzazione, cioè cercando un subentrante. L'azienda si era però promessa di condividere eventuali manifestazioni di interesse. Questo passaggio è mancato. Da qui il rinvio del tavolo. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Dei medici esterni saranno presto operativi nei pronto soccorso di Udine, La Tisana, Palmanove, San Daniele. Il servizio. Si tratta di 5 professionisti che presteranno il loro operato nei pronto soccorso di Udine, San Daniele, La Tisana e Palmanova per sopperire alla carenza strutturale di medici. A spiegarlo è il direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, David Turello, in merito all'affidamento dei servizi di guardia nei pronto soccorso di Udine, San Daniele e Palmanova. Una misura di continuità per garantire al personale interno all'azienda la predisposizione dei turni, dei riposi e delle ferie. 2 professionisti messi a disposizione dalle società private che si sono aggiudicate l'appalto a Udine, 1 per gli altri presidi. David Turello, direttore sanitario, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Questo tipo di affidamento ci garantisce, a differenza del ricorso a gettonisti, di avere una stabilità nella possibilità di programmare l'attività, anche per rendere più facilmente programmabile l'attività per i dipendenti, no? La differenza con il gettonista sostanzialmente sta nel fatto che il gettonista è un libero professionista che dà la disponibilità per alcuni turni, ma non ha un obbligo di dare la disponibilità. E pertanto può succedere che, pur avendo a disposizione 5-6 gettonisti, il numero di turni che mettono a disposizione non sia sufficiente a colmare la carenza in organico. Un servizio che dovrebbe partire dal 1 marzo a Udine e dal 4 marzo per gli altri ospedali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Acquacoltura, molluschicoltura, algocoltura, industria della pesca nel segno della sostenibilità alla fiera Acquafarm inaugurata oggi a Pordenone. Interviene con un videomessaggio il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida all'inaugurazione di Aquafarm, mostra convegno sull'acquacoltura in programma oggi e domani in fiera a Pordenone con più di 100 espositori. L'Italia ha perso il 40% delle proprie marinerie rispetto al 28% della media europea. Noi vogliamo garantire una sostenibilità ambientale che però deve essere correlata a una sostenibilità economica e di reddito. L'allevamento di prodotti ittici e molluschi in Italia vale 550 milioni di euro di prodotto, un comparto che ha a disposizione il nuovo fondo FEAMPA, che si confronta anzitutto con la sfida dei cambiamenti climatici. Pier Antonio Salvador è presidente dell'Associazione Piscicoltori Italiani. Bisogna che sappiamo rimodulare tutto il nostro allevamento, vedere che taglie possiamo fare, che interventi vogliamo fare, eventualmente con un riciclo o semi-ricicli, eccetera. Siamo organizzando anche con la ricerca per poter attuare tutte quelle iniziative che servono a poter continuare a produrre. Sulla molluschicoltura pesa anche la minaccia del granchio blu. Emilio Rambaldi è direttore dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori. La situazione è drammatica perché per l'anno scorso, per 2023, abbiamo una previsione di perdita del 60-70%. Cosa molto più grave per il 2024-25, perché soprattutto questo granchio ha mangiato il seme. Molte imprese purtroppo stanno chiudendo. Per l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier è anche necessario semplificare il sistema per renderlo autosostenibile. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Faranno risparmiare all'Università di Udine il 30% l'anno di consumi elettrici 4 nuovi impianti fotovoltaici che l'Ateneo ha installato con altri interventi di efficientamento energetico realizzati col sostegno della Regione. Gli impianti di una potenza di circa 850 kWh eviteranno l'emissione di circa 900 tonnellate all'anno di anidride carbonica nell'atmosfera, pari alla piantumazione di circa 800 alberi. I quattro impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica. Dei quattro impianti, uno si trova sul tetto del polo economico giuridico di Via Tomadini e tre nell'area del polo scientifico dei Rizzi. Hanno una durata di vita di 20 anni. Inoltre circa 17.000 corpi illuminanti di tutte le sedi sono stati sostituiti con sistemi di illuminazione a LED. Per ottimizzare l'utilizzo di energia sono stati installati timer e sensori di presenza e crepuscolari sugli impianti di illuminazione e sono stati poi efficientati gli impianti di climatizzazione con la sostituzione di 95 elettrocircolatori ed è stato realizzato un nuovo sistema di cogenerazione nel palazzo di Toppo Wasserman. Tappa triestina per il forum di investimento BioInvestit, l'evento per la bioeconomia circolare che punta a trovare investitori per le nuove idee imprenditoriali. Far incontrare ad aziende, start-up e progetti di ricerca del territorio attivi nei campi della bioeconomia circolare, quelli che utilizzano risorse biologiche rinnovabili come i vegetali o gli scarti di origine agricola, una rete di potenziali investitori che potrebbe favorirne la crescita e velocizzarne l'accesso al mercato. E questo è l'obiettivo di BioInvestIt, iniziativa alla prima edizione organizzata da Spring, il cluster italiano per la bioeconomia circolare, e dal Fondo Europeo per la bioeconomia circolare. Il progetto, che prevede appuntamenti in tutta Italia, è sbarcato questa mattina all'Urban Center di Trieste, dove 7 giovani aziende locali si sono presentate a un pubblico di investitori e player dell'innovazione attivi sul territorio. La vincitrice, selezionata da una giuria di esperti, parteciperà a un evento nazionale a Milano, al termine del quale le 3 realtà che saranno giudicate migliori si presenteranno poi a un forum di investitori di livello europeo. Si tratta di un'occasione importante per le giovani imprese di un territorio con un grande potenziale di innovazione per farsi conoscere e trovare prospettive di crescita, ha detto Franco Scolari, direttore generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico che ha ospitato l'evento. Quello della bioeconomia circolare, ha spiegato invece il direttore del Cluster Spring, Mario Bonaccorso, è un settore in continua crescita e questa tappa in Friuli Venezia Giulia punta a intercettare le migliori realtà innovative in questo campo. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Capire le migrazioni internazionali, il percorso di formazione aperto a operatori, volontari e cittadini, presentato questa mattina. L'evoluzione del diritto d'asilo in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, la normativa in vigore in Italia sull'immigrazione, il sistema dell'accoglienza, i minori stranieri non accompagnati, la tratta e lo sfruttamento dei migranti, temi di un percorso di formazione per capire le migrazioni e in fondo per capire il mondo in cui viviamo. Un calendario di 6 incontri lezioni, 2 al mese da marzo a maggio, realizzato da ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, Caritas e Centro Culturale Veritas. È rivolto a giornalisti e docenti, ma anche a chi vorrebbe coinvolgersi, offrendo, con le adeguate conoscenze, un po' del suo tempo. Gianfranco Schiavone è il presidente di ICS. È un corso per i volontari, ma è anche un corso per tutti. Sono 6 incontri per capire la realtà di Trieste, la realtà dell'Italia e dell'Europa. In realtà mi verrebbe quasi da dire che è un corso per capire il mondo, no? in cui viviamo. E magari frequentando gli incontri qualcuno potrà scoprire la vocazione di tutore di minori non accompagnati, di cui la regione è particolarmente carente. Sullo sfondo della conferenza stampa di presentazione, la situazione al Silos di Trieste. È possibile o auspicabile che il Papa, nella sua visita di luglio, chieda di vederlo? Padre Giovanni Lamanna, direttore della Caritas. Il Silos speriamo che sia disabitato a luglio. Quale desiderio esprime il Papa? Sicuramente vorrà vedere persone in sofferenza, i poveri, lo scarto delle nostre città. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso a Udine il Conservatorio Tomadini verso l'ampliamento degli spazi dedicati alla didattica, lo anticipa il nuovo presidente dell'istituzione di alta formazione musicale udinese, Guglielmo Plizzo, che resterà in carica fino al 2026 su nomina del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Previsto l'avvio nella tarda primavera dei lavori di qualificazione dei lotti 5 e 6 dei fabbricati già a sede seminariale e poi del Tribunale di Udine per oltre 1 migliaio di metri quadrati. Sarà un primo passo in direzione anche del progetto di realizzazione dell'auditorium del Conservatorio, ha spiegato il neopresidente Plizzo. Intanto il 22 febbraio il concerto inaugurale del nuovo anno accademico al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà una festa aperta a tutta la città. Interverrà anche il nuovo direttore Beppino Delle Vedove, già docente nei conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo e titolare di cattedra di organo e composizione organistica a Udine. Anche il Comitato Nazionale Pompieri CONAPO del Friuli Venezia Giulia aderisce allo sciopero dei Vigili del Fuoco indetto dalla sigla sindacale per sabato. Tra le rimostranze, quelle per l'attesa degli scatti economici e per il pagamento dei buoni pasto, oltre che per il mancato incasso dell'ultima tranche dei 164 milioni dell'equiparazione da destinare agli aumenti dei notturni e dei festivi, criticando il fatto che solo dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte del CONAPO l'amministrazione abbia bandito un nuovo concorso. L'Associazione Amici del Museo Friulano di Storia Naturale organizza un incontro sulle grandi infrastrutture, la conoscenza fisica e morfologica dei territori e lo spreco delle acque di percolazione nelle gallerie. In sala Guzmani a Palazzo Antonini a Udine alle 17.30. Carlo Comin, Carlo Cravina e Romano Bennett parleranno degli aspetti geologico-strutturali, idrogeologici e morfologici dei territori attraversati dal tracciato della linea ferroviaria Pontebbana e del possibile recupero a fini idropotabili dell'acqua di percolazione delle falde acquifere intercettate. 12.43, passiamo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10,5 gradi, a Udine e Pordenone 11, a Gorizia 13 gradi, in area montana, Forni di Sopra e Tolmezzo 17,5 gradi, a Trevisio 6, a Piancavallo 5, Sappada 1 grado, in quota sul Monte Russare e sul Monte Zoncolan 3 gradi, sulla costa Lignano 12, a Grado 11 gradi. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, questo pomeriggio cielo da sereno a poco nuvoloso per nubi alte, zero termico medio attorno ai 2000 metri, domani cielo da poco nuvoloso a variabile per nubi alte, nelle ore notturne saranno possibili foschie o locali nebbie sulla laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Lo zero termico risalirà durante il corso della giornata fino a raggiungere i 3000 metri circa in serata. Con la Fiera di Santa Caterina, la festa di San Valentino in Borgo Pracchiusa, Udine è tra le più antiche del Friuli. Quest'anno ricorre la sua 336esima edizione. La devozione per il santo nella chiesetta, dove si custodiscono anche alcune reliquie, si abbina alle bancherelle. Tra gli atti devozionali, quello delle chiavette di stagno che un tempo si imponevano sulla fronte degli epilettici e il pane benedetto a forma di otto. Nella chiesa dedicata al santo è prevista l'apertura con la vendita tradizionale del pane e delle chiavette dalle 14 alle 19.30. Alle 15.30 è in programma l'esibizione della nuova banda di Orzano. Alle 16 seguirà la benedizione del pane e alle 17.30 è previsto un concerto di musica sacra e classica, a cui seguirà il corteo e la messa in onore del santo alle 18. Tappa triestina questa sera per il Don't Forget to Fly Tour del compositore pianista pordenonese Remo Anzovino, a presentazione del suo nuovo disco con il primo piano solo della sua carriera, di cui in sottofondo state ascoltando il brano On a Tightrope. Il concerto proporrà un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte, in cui il bisogno di volare diventa suono e il piano raggiunge la forza di un'orchestra. Il titolo dell'album e del tour si rifanno all'invito a non soffocare i propri desideri e ritornare a essere protagonisti della propria immaginazione. Appuntamento al Teatro Miela alle 21. E in occasione del giorno del ricordo, la musica e la ricerca di un istriano illustre, il compositore violinista piranese Giuseppe Tartini, saranno al centro della presentazione della ristampa anastatica del Trattato di Musica secondo la vera scienza dell'armonia, pietra miliare della storia della musica, scritto da Tartini e per la prima volta pubblicato nel 1754. All'illustrazione del volume farà seguito un concerto su musiche di Tartini, appuntamento al Conservatorio di Trieste in via Gheg alle 17. La studiosa tartiniana Margherita Canale De Grassi ha integrato la pubblicazione in presentazione con un saggio critico inedito. Le abbiamo chiesto una spiegazione del terzo suono, cioè il fenomeno posto a fondamento da Tartini nella sua teoria armonica. Questo è un fenomeno acustico esistente e che si rileva ancora oggi. La spiegazione di questo fenomeno è un po' complessa, nel senso che è vero che in natura c'è la possibilità di realizzare da un suono originario dei suoni superiori, no? Quindi tutti i suoni che noi ascoltiamo non sono suoni puri, sono sempre formati da varie combinazioni di ulteriori suoni che vengono definiti armonici. Ma questo suono al grave come mai si genera? Tartini dimostra che questo terzo suono in realtà corrisponde al suono fondamentale dell'accordo dell'armonia tonale. L'armonia è quella serie di leggi che servono ad accompagnare il canto, diciamo l'arte di combinare gli accordi secondo la tonalità. E quindi lui dimostra che in realtà l'armonia tonale che noi usiamo è insita nelle leggi della natura, non è inventata dalla nostra cultura musicale o da una certa evoluzione storica. Queste sue teorie lui ha cercato di farle confermare da vari matematici, studiosi, per esempio Eulero, oppure ha avuto varie anche rapporti epistolari con personaggi molto importanti, d'Alembert, autori francesi, insomma. Però il mondo dei dotti è sempre stato un po' perplesso nei confronti di questo musicista che tipicava anche di studi di tipo acustico. In realtà nell'Ottocento e poi soprattutto negli ultimi studi di fisica del tardo Novecento, dei primi anni del 2000, queste teorie sono state confermate. Un appuntamento con gli spettacoli, ritorna in scena Open, lo show diretto e coreografato da Daniel Ezralow, appuntamento al Rossetti a Trieste alle 20.30. È stato rimandato al 25 marzo l'appuntamento inizialmente previsto per oggi alla Tisana per il romanzo Alma di Federica Manzon, che fa di Trieste il punto di vista da cui guardare difficili tentativi di capire chi siamo e dov'è la nostra casa. L'appuntamento sarà sempre alle 18 nella sala conferenze della ex stazione ippica di La Tisana, come detto il 25 marzo. E adesso lo sport. Nella Serie C di calcio prosegue la serie nera della Triestina, che ha perso anche nel turno infrasettimanale contro il Renate. Tre partite, tre sconfitte. Il cambio di allenatore non ha fermato la crisi della Triestina, che perde anche la gara casalinga di Fontanafredda contro il Renate per 3-1. Sconfitta pesante anche perché sono i padroni di casa a fare la partita, trovando il vantaggio dopo 12 minuti con un gran gol di Anzolin. Una conclusione di sinistro dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere lombardo e che vale la pena di rivedere. Il Renate reagisce e pareggia quasi subito, azione sulla sinistra di Dorsi, cross al centro e più rapido di tutti è Sorrentino che batte Matosevic. Altra occasione in apertura di ripresa quando Reidan va in gol sul lancio di Anzolin, netta però la posizione di fuorigioco dell'attaccante alabardato. E sono i giuliani che continuano ad avere le opportunità migliori, anche per questo nella fase finale arriva come una doccia fredda il gol del vantaggio lombardo. Azione dalla sinistra, cross basso, difesa decisamente rivedibile che permette a Paudice un facile tocco da sottomisura che vale il 2-1. E sempre dalla fascia sinistra arriva la palla per la rete che chiude il match. La segna a tempo ormai quasi scaduto Sorrentino. La classifica della Triestina peggiora con il distacco del Padova secondo che sale a 9 punti. Gli alabardati tornano in campo domenica a Lumezzane. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La velista triestina Jana Germani si è qualificata per le Olimpiadi del 2024 vincendo l'argento europeo. Prima dell'appuntamento con i campi di regata olimpici a Marsiglia, Germani sarà impegnata in mondiale a Lanzarote, dove si sta allenando. Solo per pochi giorni a Trieste, Andrei Cernic, della redazione slovena della TGR, Friuli Venezia Giulia, l'ha intervistata. Jana Germani, le Olimpiadi sono il sogno di ogni sportivo. Adesso questo sogno per te è diventato realtà. Sicuramente è stato un grande step a conquistare il passo olimpico. Ora ovviamente c'è tanto duro lavoro per arrivare in forma migliore possibile e puntare a un gradino del podio. Cosa significa adesso la preparazione per le Olimpiadi? Davanti a te e alla tua compagna Giorgia Bertuzzi c'è comunque ancora un importante appuntamento prima delle Olimpiadi? Abbiamo ancora il campionato mondiale a Lanzarote e mancano poco meno di 170 giorni alle Olimpiadi, quindi ogni giorno conta e ogni allenamento è importantissimo per migliorare ancora le piccole cose che si possono migliorare. Quali sono le avversarie più temibili? Abbiamo abbastanza avversarie con cui confrontarci, direi almeno un 6-7, tra cui la svedese, la norvegese, le americane, le inglesi, le ultime due con le quali ci alleniamo anche quotidianamente, quindi abbiamo anche una preparazione, diciamo, su equipaggio per equipaggio e conosciamo i loro punti deboli e anche i loro punti di forza. Il vostro pass per le Olimpiadi è stato raggiunto con il secondo posto ai campionati europei. La settimana dell'Europeo è stata una settimana molto difficile, caratterizzata da poco vento, condizioni in cui comunque noi soffriamo un po', però siamo riuscite a dare il meglio tutti i giorni. I primi giorni eravamo anche prima in classifica, poi le norvegesi, che sono molto più leggere, ci hanno sorpassato, però il pass era ancora in gioco, quindi abbiamo cercato di mantenere anche il secondo posto, che è stato molto importante, oltre che ovviamente alla qualifica olimpica. Ottavo posto per la triestina Elisa Cosetti nella gara di tuffi dalle grandi altezze ai mondiali che si stanno disputando a Doha in Qatar. Dalla piattaforma 20 metri la nostra portacolori che partiva dallo splendido sesto posto ottenuto ieri, che l'aveva portata a soli 6 punti dal podio, ha tenuto testa per oltre la metà della gara alle campionesse internazionali in lizza, che poi hanno allargato il divario presentando tuffi con il più alto coefficiente di difficoltà. La vittoria è andata all'australiana Rihanna Ifland, che ha preceduto le due canadesi Carlson e McCauley. Domani tocca all'altro portacolori della triestina nuoto, Andrea Barnaba, che sarà in pedana ripartendo dall'undicesimo posto maturato dopo due turni di tuffi nella gara che vede in testa il britannico naturalizzato francese Gary Hunt, 39enne, due volte campione del mondo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Federico Comare, Bruno Montevecchi. In segreteria ha collaborato Valentina Veneruso. Da Maria Spezia e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.